L'ultima passeggiata. Capitolo ottavo di Miricce. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, dicembre 2007. Miricce di Giovanni Pascoli. Capitolo 8. L'ultima passeggiata. Primo. Arano. Al campo, dove roggio nel filare qualche pampano brilla e dalle fratte sembra la nebbia mattinal fumare, arano. All'ente grida, uno le lente vacche spinge, altri semina, un ribatte le porche con sua marra paziente. Che il passero saputo in cor già gode e il tutto spia dai rami irti del moro e il pettirosso nelle siepi sode il suo sottil tintinno come d'oro. Secondo, di lassù. La lodola perduta nell'aurora si spazia e di lassù canta alla villa che un fil di fumo qua e là vapora. Di lassù largamente bruni farsi solchi mira quella sua pupilla lontana e i bianchi bovi a coppie sparsi. Qualche zolla nel campo umido e nero luccica al sole, netta come specchio. Fa il villano mannelle in suo pensiero e il canto del cuculo ha nell'orecchio. Terzo, galline. Al cader delle foglie alla massaia non piange il vecchio cor, come a noi grami, che d'arguti galletti ha piena laia, e spessi nella pace del mattino delle utili galline ode i richiami, zeppo il granaio, il vin canta nel tino. Cantano a sera intorno a lei stornelli le fiorenti ragazze occhi pensosi, mentre il gran turco sfogliano, e i monelli ruzzano nei cartocci strepitosi. Quarto, lavandare. Nel campo mezzo grigio e mezzo nero resta un aratro senza buoi che pare dimenticato tra il vapor leggero e cadenzato dalla gora viene lo sciabordare delle lavandare con tonfi spessi e lunghe cantilene. Il vento soffia e nevica la frasca e tu non torni ancora al tuo paese. Quando partisti, come son rimasta, come l'aratro in mezzo alla maggese. Quinto, i due bimbi. I due bimbi si rizzano, uno a stento indolenzito, grave l'altro. Il primo alza il corbello con un gesto lento, e in quel dell'altro fa cader bel bello il suo tesoro d'accattato fimo, e quello va più carico e più snello. Il vinto siede, prova un'altra volta coi noccioli, li sperpera, li aduna e dice, forse al grande olmo che ascolta, e poi si dica che non ha fortuna. Sesto, la via ferrata. Tra gli argini su cui mucche tranquillamente pascono, bruna si rifila la via ferrata che lontano brilla. E nel cielo di perla dritti uguali con loro trama delle aeree fila digradano in fuggente ordine i pali. Qual di gemiti e d'ululi rombando cresce e dilegua femminil lamento? I fili di metallo a quando squillano, immensa arpa sonora al vento. Settimo, festa lontana. Un piccolo infinito scampanio ne ronza e vibra, come ad una festa assai lontana, dietro un vel d'oblio. Là, quando ondando vanno le campane, scoprono i vecchi per la via la testa bianca, e lo sguardo al sol fisso rimane. Ma tondi gli occhi sgranano i bimbetti, cui trema intorno il loro ciel sereno. Strillano al crepitar dei mortaretti, mamma li stringe all'odorato seno. Ottavo, quel giorno. Dopo rissosi cinguettii nell'aria, le rondini lasciato hanno i veroni della cura fra gli olmi solitaria. Quanti quel roseo campanil bisbigli udì quel giorno, o strilli di rondoni impazienti agli inquieti figli. Or nel silenzio del meriggio urtare là dentro odo una seggiola, una gonna frusciar d'un tratto, alla finestra appare curioso un gentil viso di donna. Nono, mezzogiorno. L'osteria della pergola è in faccende, piena e di grida, di brusio, di sordi tonfi, il camin fumante a tratti splende. Sulla soglia, tra il nembo degli odori pingui, un mendico brontola. Altri tordi c'era una volta, e altri cacciatori, dice, e il cor s'è beato. Mezzogiorno dal villaggio a rintocchi lenti squilla, e dai remoti campanili intorno un'ondata di riso empie la villa. Decimo, già dalla mattina. Acqua rimbomba, dondola cassetta, gira coperchio intorno la bronzina, versa tramoggia il gran dalla bocchetta, spolvero svola, nero da una fratta l'asino attende già dalla mattina presso la risonante cateratta. Le orecchie scrolla e volgesi a guardare che tardi tra finire andar bel bello, intridere, spianare ed infornare sul desco fumerai pan di cruschello. Undicesimo, carrettiere. O carrettiere, che dai neri monti vieni tranquillo e fosti nella notte sotto ardue rupi, sopra aerei ponti. Che mai diceva il querulo aquilone che muggia nelle forre e tra le grotte? Ma tu dormivi sopra il tuo carbone. A mano lungo lo stradale venia fischiando un soffio di procella, ma tu sognavi che era di Natale, udivi i suoni d'una cennamella. Dodicesimo, in capannello. Cigola il lungo e tremulo cancello e la via sbarra. Ritti allo steccato, cianciano le comari in capannello. Parlan d'uno che un altro scrivo scrivo, del vin che costa un occhio e ce n'è stato, del governo, di questo mal cattivo, del piccino, del grande che è sui venti, del maiale che mangia e non ingrassa. Nero, avanti a quegli occhi indifferenti, il traino con fragore di tuon passa. Tredicesimo, il cane. Noi, mentre il mondo va per la sua strada, noi ci lodiamo, e in cuor doppio è l'affanno, e perché vada, e perché lento vada. Tal, quando passa il grave carro avanti del casolare, che il rozzon normanno stampa il suolo con zoccoli sonanti, sbuca il can dalla fratta, come il vento. Lo precorre, rincorre, uggiola, abbaia, il carro è dilungato lento lento. Il cane torna sternutando all'aia. Quattordicesimo. O reginella, non trasandata ti creò per vero la cara madre, tal lungo la via te la albeggia, onde godi in tuo pensiero. Presso è la festa e ognuno a te domanda candidi i lini, poi che in tua balia è il cassone odorato di lavanda. Felici i vecchi tuoi, felici ancora i tuoi fratelli, e più, quando a te piaccia, chi sua ti porti nella sua dimora, o reginella dalle bianche braccia. Quindicesimo, ti chiama. Quella sera i tuoi vecchi, odi, ti chiama la cara madre, al fumo della bruna pentola con irrequieta brama, rissano i bimbi, frena tu, severa, quinci una mano trepida, quindi una stridula bocca, e al piccol volgo impera, sì che in pace tra un grande acciottolio bruchi la sussurrante famigliola. Quella notte i tuoi vecchi un dolor pio soffocheranno contro le lenzuola. Sedicesimo, o vano sogno. Al camino ove scoppia la mortella tra la stipa, o ch'io sogno o veglio teco, mangio teco, radicchio e pimpinella. Al soffiar delle raffiche sonanti l'aulente fieno sul forcon m'arreco e visito i miei dolci ruminanti. Poi salgo e teco, o vano sogno, quando nella macchia fiorisce il pan porcino, lo scolaro i suoi divi ozi lasciando spolvera il badiale calepino. Chioccola il merlo, fischia il beccaccino. Anch'io torno a cantare in mio latino. Fine del capitolo 8.